Anima Jazz, un programma di jazz tradizionale e contemporaneo ideato e condotto per voi in studio da Bruno Pollacci. Buonasera a tutte le mie ascoltatrici e i miei ascoltatori, un grande abbraccio da Bruno Pollacci. Siete all'ascolto di Anima Jazz numero 660, una puntata che parte subito con del buon jazz italiano, e a presentarcelo è la formazione di The Spinning Quintet, featuring Mike Melillo, questo special guest molto importante a livello internazionale al pianoforte, Giacomo Uncini alla tromba, Antonangelo Giudice al sax tenore, Gabriele Pesaresi al contrabbasso, Massimo Manzi alla batteria e, come ho detto prima, lo special guest, il pianista Mike Melillo. The Spinning Quintet, per la nota mia, hanno realizzato un CD intitolato Nice If You Can, e da questo CD noi stasera ci potremo ascoltare Close Your Eyes. Buon ascolto quindi con The Spinning Quintet featuring Mike Melillo. Thank you. Bene, questa era la musica che ci ha proposto The Spinning Quintet, questo ottimo gruppo formato da straordinari professionisti quali Giacomo Uncini alla tromba, Antonangelo Giudice al sax tenore, Gabriele Pesaresi al contrabbasso, Massimo Manzi alla batteria e special guest Mike Melillo al pianoforte. Il gruppo ci ha fatto ascoltare l'interpretazione di Close Your Eyes, che mette in evidenza il grande amore per il mainstream e per la grande tradizione vissuta sempre con l'estrema professionalità di questi grandi musicisti e nello stesso tempo con estrema sensibilità. Avete sentito, ogni assolo era veramente molto prezioso. Nice If You Can è il titolo di questo CD pubblicato da Notami Jazz per The Spinning Quintet. E adesso proseguiamo con il buon jazz italiano con la chitarrista Anna Garano, una chitarrista coraggiosa, capace di comporre pezzi molto interessanti, di interpretare con originalità anche pezzi di altri autori facendoli suoi. La formazione vede Anna Garano alla chitarra, Marc Ribot alle chitarre in alcuni pezzi del CD, Flavio D'Avanzio alla tromba, anche lui presente in un pezzo, Anè Tekerian alla voce in un pezzo e Doug Weiselman al clarinetto basso in un pezzo di questo progetto discografico che si intitola Lessness, stato pubblicato dalla 12 Lune Records. Stasera noi ci ascolteremo proprio il pezzo che apre l'album, che è intitolato Imagine, che è una composizione originale di Anna Garano. Buon ascolto. Thank you. Bene, questa era la chitarrista Anna Garano. Anna Garano che dal suo progetto discografico Lessness, pubblicato dalla 12 Lune Records, ci ha fatto ascoltare una sua composizione originale intitolata Imagine Sisses, che è il pezzo, tra l'altro, che apre l'album. In questa composizione avevamo anche la presenza di un ospite che era il grande Marc Ribot alle chitarre, con questi effetti molto particolari. Una musicista che sa creare delle ambientazioni molto poetiche, toccanti, e tutto il CD è veramente un invito all'ascolto profondo di queste tracce interpretate veramente con grande sensibilità, oltre che con grande proprietà di linguaggio, con grande capacità tecnica. Anna Garano dal CD Lessness, pubblicato da 12 Lune Records. Bene, ora alterniamo un po' il buon jazz italiano con il jazz che ci arriva anche dall'estero, e cominciamo con un interessante sassofonista e compositore indiano che si chiama Radresh Mahantappa e che si presenta in anima jazz con un progetto discografico intitolato Bird Call. La formazione vede il sassofonista Radresh Mahantappa, Adam O'Farrell, trombettista di 20 anni, strepitoso, Matt Mitchell al pianoforte, François Motain al contrabbasso e Rudy Royston alla batteria. Tutti musicisti di grande esperienza, a parte questo ventenne straordinario alla tromba, che ci faranno ascoltare una composizione originale di Radresh Mahantappa intitolata Botens. Buon ascolto. We'll be right back. Gran bella musica quella che ci ha offerto il quintetto guidato da Radresh Mahantappa, un quintetto straordinario. Radresh Mahantappa, veramente un ottimo sassofonista, grande compositore ma anche grande musicista, grande strumentista. Avete sentito i suoi assoli, veramente un volo di grande fantasia, di grande creatività. Questo straordinario ventenne Adam O'Farrell alla tromba, che al pari di Radresh Mahantappa ha vissuto tutti gli assoli, tutti i duetti con grande e straordinaria facilità, apparente almeno, con questa scioltezza, con questa sicurezza professionale che non è certo tipica di un ventenne. Matt Mitchell al pianoforte, ottimo accompagnatore ma anche capace di assoli molto interessanti. François Mouten al contrabbasso e Rudy Royston alla batteria, una sezione ritmica sempre all'altezza della situazione, precisa e dinamica in questo pezzo ricco di grande energia, intitolato Botens, una composizione originale di Radresh Mahantappa tratta dal CD Bird Call. E adesso ritorniamo un po' alla buona musica italiana. Ci ritorniamo con un musicista che conosco da tempo e che promuovo sempre con grande piacere. Si tratta del sassofonista e compositore Silvio Zalambani. Silvio Zalambani, che ha sempre vissuto con grande amore, con grande dedizione la musica latinoamericana, ha vissuto interpretazioni e ha anche composto dei pezzi veramente particolari, interessanti e molto coinvolgenti. Ha appena registrato insieme a Federico Lechner un CD per la Borgatti Edizioni Musicali intitolato Déjà Vu, e da questo CD in duo Silvio Zalambani e Federico Lechner ci faranno ascoltare Amarelo, che è una composizione originale di Silvio Zalambani. Buon ascolto. Thank you. Bene, questa era Amarelo, una composizione originale di Silvio Zalambani, il sassofonista che insieme a Federico Lechner al pianoforte ha realizzato questo nuovo CD intitolato Déjà Vu, pubblicato dalla Borgatti Edizioni Musicali, nel quale sono raccolti pezzi molto interessanti che testimoniano il grande amore e la grande passione per la musica latin, vissuta con grande sensibilità e oltre che con grande preparazione tecnica. Il pezzo che ci siamo ascoltati è molto gradevole, ma non è soltanto gradevole, ci sono dei pezzi, ci sono degli assoli, dei fraseggi che sono veramente creativi, fantasiosi, che ci fanno volare, che fanno andare molto al di là del latin tradizionale, delle interpretazioni della musica sudamericana, anche se attraverso composizioni originali che a volte ripetono quasi un po' passivamente certi canoni. Qui c'è un volo creativo che è tipicamente del jazz e che, pur abbracciando un certo linguaggio, un certo genere di linguaggio, riesce sempre a offrire opportunità stimolanti proprio per la sua imprevedibilità. Silvio Zalambani qui ci ha dato un esempio straordinario di tutto questo, supportato dalla presenza di questo ottimo pianista che è Federico Lechner, e che anche lui ha saputo interpretare con grande fantasia questo pezzo. Amarelo di Silvio Zalambani con Federico Lechner al pianoforte dal CD Déjà Vu. E adesso andiamo avanti con uno straordinario chitarrista serbo, molto particolare, che viene definito come un interprete del post rock che ha realizzato da poco un CD intitolato Live per la Moon June Records, una casa discografica che io seguo da molti anni, con delle pubblicazioni veramente molto particolari, molto interessanti. E da questo CD noi ci ascolteremo una composizione originale intitolata Am I Walking Wrong? Buon ascolto. We'll be right back. Veramente interessante la musica di Dusan Jevtovic, questo particolare chitarrista che ha una carica straordinaria, una capacità inventiva notevole, una composizione, questa I Am Walking Wrong, veramente sconvolgente per la sua forza, per la sua imprevedibilità, per la sua capacità espressiva. E il progetto è vissuto insieme a Bernat Hernandez al basso e Marco Giorgevic alla batteria. Si tratta di un live vissuto a Barcellona e raccolto in questo progetto discografico intitolato Live, pubblicato dalla Munjung Records. Dusan Jevtovic. Bene, dopo Dusan Jevtovic adesso torniamo in Italia e ci ritorniamo con un musicista molto conosciuto, molto bravo, prestigioso, che ho avuto il piacere di promuovere più volte nei miei programmi, che si chiama Daniele Sepe. Daniele Sepe suona il sax tenore e il sax soprano in questo nuovo progetto discografico intitolato A Note Spiegate, e vive questo progetto con un bel ensemble, con Paolo Romano Sheon alla voce, Alessandro Tedesco al trombone, Pietro Festa sega musicale, Franco Giacoi alla chitarra elettrica, Tommy De Paola pianoforte e tastiere, Davide Costagliola al basso elettrico, Robertinho Bastos alle congas e percussioni e Paolo Forlini alla batteria e percussioni. Stasera noi ci ascolteremo un pezzo intitolato Big Nick UNL. Buon ascolto con Daniele Sepe dal nuovo progetto discografico A Note Spiegate. We'll be right back. Daniele Sepe che non tradisce mai le aspettative sono sempre quelle di grande fantasia, di grande creatività, sicuramente un mix di emozioni che fanno intendere una grande conoscenza dell'animo umano, soprattutto una conoscenza del quotidiano che viene trasportata in musica con quel pizzico di ironia, con drammaticità, con poesia. C'è veramente il mix del nostro quotidiano, della nostra gente, della nostra vita, che è fatta veramente di tanti colori. La musica di Daniele Sepe è veramente una tavolozza di emozioni, di situazioni, di atmosfere che ci riportano la complessità e anche lo stimolo della varietà dei sentimenti che si vivono quotidianamente. E la musica di Daniele Sepe è sempre molto interessante, molto stimolante, non c'è mai niente da dare per scontato e quindi l'ascolto deve essere sempre molto attento, anzi viene naturalmente tenuto attento proprio grazie a queste qualità che gli sono proprie. Ricordo che la formazione vede Daniele Sepe al sax, tenore e soprano, che si alterna in vari pezzi, Paolo Romano Sean alla voce, Alessandro Tedesco al trombone, Pietro Festa alla sega musicale, Franco Giacoia alla chitarra elettrica, Tommy De Paola pianoforte e tastiere, Davide Costagliola al basso elettrico, Robertinho Bastos alle congas e percussioni, Paolo Forlini batteria e percussioni. Il CD è intitolato A note spiegate, lo consiglio a tutti, veramente molto interessante, molto stimolante, dal primo all'ultimo pezzo, e noi ci siamo ascoltati Big Nick UNL. Bene, dopo questo pezzo energetico, interessante, stimolante di Daniele Sepe, proseguiamo con una new entry nei nostri programmi. Si tratta della pianista Diane Roblin, che ha realizzato un bel CD intitolato Reconnect e l'ha fatto insieme a Jeff King al sax tenore, Howard Spring alle chitarre, Russ Boswell al contrabbasso e Roger Travassos alla batteria. Il pezzo che ci ascolteremo stasera da questo CD intitolato Reconnect è In the Beginning ed è una composizione originale della stessa leader del progetto, la pianista Diane Roblin. Buon ascolto. Thank you. Ebbene, questa era la musica di Diane Roblin, questa pianista tastierista che suona con grande scioltezza, con grande freschezza, così come i membri del suo gruppo: Jeff King al sax tenore, Howard Spring alla chitarra, Russ Boswell al basso, Roger Travassos alla batteria, un ensemble molto complice di Diane Roblin per questa esecuzione della sua composizione originale In the Beginning, che vede il gruppo veramente affiatato con dei belli assoli, dei bei fraseggi, sicuramente molto gradevole, molto fresco, molto vivace e con una buona dote di fantasia, di creatività. Adesso ritorniamo ancora una volta in Italia e ci ritorniamo con Giovanni Benvenuti e il suo quartet. Giovanni Benvenuti è un sassofonista, suona il sax tenore, insieme a lui Simone Graziano al pianoforte, Francesco Pierotti al contrabbasso e Andrea Grillini alla batteria. Hanno realizzato un bel CD intitolato Che fine ha fatto il signor Bowman? E da questo CD noi ci ascolteremo una composizione originale di Giovanni Benvenuti intitolata Il giuramento di Joel. Buon ascolto con Giovanni Benvenuti Quartet. Thank you. Bene, ci siamo ascoltati la musica del sassofonista Giovanni Benvenuti. Giovanni Benvenuti in quartet con musicisti molto validi, molto interessanti, quali Simone Graziano al pianoforte, Francesco Pierotti al contrabbasso e Andrea Grillini alla batteria. Alcuni di questi sono musicisti che sono stati più volte alla ribalta del jazz nazionale e che quindi sono rappresentano una grande sicurezza per ogni tipo di progetto. La sicurezza non è soltanto basata sulla loro professionalità, ma sulla loro sensibilità, sulla capacità di interpretazione e di calarsi nelle composizioni, in questo caso nelle composizioni di Giovanni Benvenuti, con solidità, con felici intuizioni di fraseggio. Avete sentito la scioltezza, la sicurezza negli assoli di Giovanni Benvenuti e anche la particolarità creativa, inventiva del pianismo di Simone Graziano con la sua complessità musicale. Un jazz che rispetta con grande amore la tradizione, ma che si cala decisamente nella contemporaneità, quindi un progetto equilibrato, interessante, che merita attenzione dal primo all'ultimo pezzo. Ricordo che il CD è intitolato Che fine ha fatto il signor Bowman ed è stato pubblicato dalla M Records. Questa era la musica di Giovanni Benvenuti e con il CD di Giovanni Benvenuti si chiude anche questa 660esima puntata di Anima Jazz. L'appuntamento è come sempre a giovedì prossimo alla solita ora. Ciao ciao a tutti da Bruno Pollacci e da Anima Jazz.